No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Non so se l'avevate capito, ma le ribelli sono tornate, come ogni domenica. Ni una menos, cabrón, ni una menos. Eccoci, buongiorno, siamo tornate, siamo le ribelli di nuovo su Radio ZAM. Al momento siamo presenti io e la nostra cara Maya da dal profondo sud, Los Santos, dove ha anche nevicato in questi giorni, vero Maya? Certo. La neve arriva anche al sud, ti capì? Madonna, se arriva al sud, ha voglia che arriva al sud. Allora, come stai? Come sto? Infreddolita sicuramente, ma ipergasata per questa puntata che sarà veramente un attacco porno-terroristico a tutta la convenzione della sessualità che ci hanno imposto dall'anno zero fino a... purtroppo a che non abbiamo scoperto il post porno, il transfemminismo e il porno terrorismo. Porno terrorismo, secondo me, cioè, già come termine è veramente di grande impatto e insomma fa un po' paura in senso buono. Ma hai voglia, ma infatti poi soprattutto se si pensa che attraverso il porno terrorismo si cerca di superare, di esplorare attraverso anche la performance, attraverso tutta una serie di pratiche artistiche, ludiche, sportive, erotiche, si cerca proprio di superare il concetto di violenza che c'è con il terrore, cioè il terrore della violenza stessa è un qualcosa che veramente, veramente, veramente ci fa uscire fuori testa. Come lo chiede appunto Diana Di Torres, che secondo me è un po' la guru del porno terrorismo. Guarda, vorrei proprio iniziare questa puntata leggendo il piccolo manuale di Azione porno terrorista. Sì, però ti fermo un attimo perché prima c'è tutta l'introduzione, nel senso che adesso Maya ci ha già dato qualche bello stimolo, ha già introdotto il tema della puntata e, però come al solito il rito è: siamo arrivate come di domenica, oggi puntualissime alle 17 abbiamo iniziato, la canzone è partita alle 17, non è ancora successo nessun inghippo tecnico, quindi oddio, ho quasi paura. Io ammetto che oggi mi sono data molto all'improvvisazione, quindi vedremo cosa esce. E niente, volevo ricordare subito i canali a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e per poter interagire con la diretta, ovvero c'è la pagina Facebook Radio ZAM dove potete mandare dei messaggini, oppure c'è la chat di Telegram, chiocciola Radio Zam trattino basso chat, dove potete scriverci dei messaggi, noi li leggiamo in diretta, oppure c'è Instagram delle ribelli, le trattino basso ribelli trattino basso Zam. Insomma, scrivete. E, il tema ve l'abbiamo un pochettino già anticipato. E in questo caso, io come al solito, Maya, intanto ringrazio tutte le ribelli che oggi c'è stato proprio un fuggi-fuggi, dovuto anche alla zona rossa. Va bene, ricominciato tutto quanto, però. Ai ai ai, ribelli mie, mannaggia a voi. Siamo state molto ribelli, siamo state ribelli della ribellanza proprio. Esatto. Ribelli al quadrato. Niente, allora vi manderò subito un'altra canzoncina. Ah, ringrazio la presenza qua in radio con me, che non mi lascia da sola, è molto caloroso tutto ciò. Grazie, saluta con la manina, rimane in incognito. Vediamo cosa dirà della puntata, se alla fine si sentirà di intervenire e dire qualcosa. E finalmente niente, basta musica. Vi lascio con la Selecta di Lady J come sempre. E non so perché oggi, vedi, l'inghippo è stato che ho trasferito tutta la musica scelta da Lady J. Di solito la metto uno per uno, così sono già in ordine in cui devono andare in radio. Oggi la playlist ha deciso di fare i fatti suoi e me le ha combinate tutte, quindi devo andare a cercarle. E vabbè. Aia, aia. Niente, allora vi lascio con Sex Appeal. Adesso aspetta, di Sex Appeal, Sexy Sushi. Viene in mente, wow! Mi viene in mente una foto che ho visto proprio oggi su Instagram. A voi buon ascolto. Soutien-gorge, collant nylon. Sex appeal. ensemble, fait mouiller devant, derrière, sex appeal. Eccoci, sex appeal. Niente, io ho invertito il nome del cantante, della gruppo e il titolo della canzone. Sono bravissima. Altra piccola chicca, su questa canzone è la colonna sonora di un famoso corto post-porno dei primi anni 2000 di Marit Osberg, cui nome è Fact Police in Dirty Diaries. Questa è un'informazione preziosissima che ci ha dato l'ospite di questa puntata, che ovviamente non vi svegliamo niente prima, però ci ha già dato questa bella chicca. Segnate, grazie. Segnate gente, segnate, sono cose interessanti da andare a vedere, forza, forza, non perdete l'occasione. Allora, Maya, di cosa parliamo oggi? Oggi abbiamo detto, vogliamo aprire le frontiere del post porno e del porno terrorismo. Yay! Yes. Prima di tutto, ovviamente, partiamo dal porno terrorismo, perché vogliamo sempre partire col botto e poi andare un po' più nel concettuale, andare più nel performativo, nel ludico, nel quotidiano. Allora, che cos'è porno terrorismo? Il porno terrorismo, come dicevo prima, di per sé è da poter definire come un movimento, una pratica, una filosofia. Di per sé si può dire che è quello che ci permette, se un modo, è un'attitudine di vivere la propria sessualità, che ci permette appunto di sdoganare, di decostruire completamente sin dalle basi gerarchiche più stupide che ci hanno dato dagli arbori tutti quei dogmi sul senso del sesso e della sessualità. In particolar modo per Diana J. Torres, che è l'autrice del manifesto che vi andrò a leggere tra poco, manifesto appunto contenuto in Porno Terrorismo, pubblicato da Malatempora nella collana Controcultura. Diana G. Torres appunto ne parla come di una vera e propria pratica attraverso cui esorcizzare il terrore della violenza e riprendere potere sul proprio corpo e sulla propria sessualità, agendo violenza su se stessi, però terrorizzando l'altro perché non capisce la violenza che stai compiendo su te stesso. E ovviamente è molto complicato, detto così, sì. Non si capisce molto. Sì. Per questo ha senso andare a leggere il piccolo manuale di azione nel porno terrorista. Sia con due citazioni, una di Albert Einstein, l'altra di Virginia Woolf. Gli uomini hanno bisogno dell'azione e se non la trovano, la creano. Devono precedere ogni azione. Cioè, nonostante l'azione è più nobile di per sé qualsiasi pensiero o teoria. Ok. Questa di chi è di citazione? Di Virginia Woolf. Ok, perfetto. E ora cosa ci dice di Diana J. Torres? Chiunque abbia intenzione di farlo può diventare pornoterrorista. In realtà non è niente di speciale, non si tratta di un dono. Il porno terrorismo si può progettare anche nelle cose semplici e quotidiane. Non lo dico per sminuire la cosa, perché il fatto che lo possa fare chiunque non significa che non richieda uno sforzo e che non ci si debba lavorare su. Solo che non c'è bisogno di essere eccessivamente perversi o perverse, né di essere particolarmente predisposti o predisposte all'esibizionismo, alla trasgressione, il sesso o la combattività. Anzi, direi senza paura di sbagliarmi, che può svilupparsi o essere appreso come qualsiasi altro tipo di pensiero, strategia o linguaggio. Solo una cosa è indispensabile, l'anticonformismo. Nemmeno la rabbia è necessaria, un'azione porno-terrorista può essere carica di umorismo ed essere abbastanza ludica. Per cui, se qualche volta hai pensato che il mondo che ti circonda è una schifosa spazzatura, ma non sai come canalizzare questo sentimento così terribile, esci per strada e gridalo, non tenerlo per te. Evita le ulcere e i dolori di stomaco ed esterna il tuo malcontento. Per essere più concreta, se quello che ti dà fastidio ha qualcosa a che vedere con le imposizioni morali, sociali e legali che lo Stato e la Chiesa, o più in generale le persone, applicano al tuo corpo e alla tua sessualità, in questo caso, tra tutti i tipi di interventi possibili sul suolo pubblico, l'azione porno terrorista è quella che meglio si adatta ai tuoi propositi. La prima e più semplice cosa da fare è capire in che modo la legge o la morale reprimono la nostra sessualità nel posto in cui viviamo e cominciare da lì. Questo è sempre un campo molto fecondo, perché viviamo in una società in cui, per quel che riguarda il sesso, tutto è peccato, illecito o sconveniente, secondo la maggioranza. Esistono leggi così assurde che se le conosceste morireste dal ridere, anche se in realtà è molto triste constatare fino a che punto i nostri corpi, le nostre vagine, i nostri peni e i nostri anni gli appartengano. Quindi questo è appunto il manuale, piccolo manuale di azione porno-terrorista, scritto da Diana J. Torres, la quale nella sua sinossi in questo libro si descrive come eiaculatrice precoce, porno-terrorista lubrica, spaccapalle, doc, poetessa, prostituta fallita e aggiungere alla lista quello che si preferisce. Dedica il suo tempo a ideare strategie per distruggere i cattivi, Stato, Chiesa, razionalismo scientifico, tutto manovrato dalla grande macchina eteropatriarcale, spaziando dalla performance, da cui è dipendente dal 2001, all'azione diretta, per la scrittura, i workshop, il post-porno e la prevaricazione sessuale. Ma Maya, ci fai un esempio, magari anche lì del libro, non lo so, di non so, una sua performance che lei definisce un'azione porno terrorista? Sì, assolutamente. Tra l'altro c'è stata anche l'opportunità, cioè penso che delle compagne di delle ribelli hanno avuto la possibilità di vederla dal vivo, di Diana J. Torres, alla Fornace. Ha fatto delle performance. Aha. Esatto. E una delle sue performance più famose, un esempio di performance, è quella di leggere le sue poesie mentre si fa penetrare in maniera coatta e consenziente, però, cioè nel senso, in maniera consenziente, da strumenti molto grandi, e squirtando, barra mentre prova dolore, lei recita le sue poesie. E quindi lei si riappropria del suo dolore attraverso il proprio corpo, il proprio piacere. Cioè, il dolore che lei prova e che lei si sta infliggendo provoca terrore al proprio pubblico, ma non a lei, perché lei lo sta facendo proprio. Cioè, è come se in una sola azione, che poi non è una sola, me ne rendo conto, però in una sola performance stia buttando giù 4-5 tabù contemporaneamente. Esatto, esatto. Ma infatti il libro di per sé è molto, molto, molto, molto desacralizzante, cioè addirittura tutta un'intera parte, che sarebbe interessante poi leggerla magari in qualche altra puntata, in cui si parla di come l'abuso sui minori, cioè la sessualizzazione anche dei piccoli di per sé non è sbagliata, cioè la sessualità che vivono i piccoli è una sessualità a cui nessuno potrà mai arrivare. Ma l'abuso è il momento in cui ci si rende conto e si abusa di questa fantasia diversa, ecco, di questa sessualità diversa, una sessualità immatura o matura in maniera diversa. Cioè, si parla anche di questo, e si parla di come il concetto di pedofilia di per sé sia un concetto strettamente legato alla società. Capisco, sì sì sì. E anche... Però magari andare a desacralizzare una sessualità conoscitiva molto, molto ingenua, della scoperta anche del proprio corpo, imponendo però appunto qualcosa che arriva da già un percorso avviato, una visione anche magari distorta. Sì, qui si entra anche in argomenti un po' sì, tossi. Allora, la traduttrice del libro Porno Terrorismo di Diana J. Torres ovviamente è slavina. Altra figura lamentare all'interno della scena post porno italiana. Sì. Chi non la conosce, Slavina? Chi non conosce Slavina? E infatti lei, nella prefazione del libro, mette tra gli effetti collaterali, scrive: dopo averlo letto questo libro, il nemico lo cercherete nello specchio ogni mattina e potrete ucciderlo con l'arma invincibile della poesia. Non male, bisognerebbe proprio leggerlo questo libro, tutti quanti. E credo che sia interessante anche il processo, cioè forse magari ho capito io questo da quello che hai spiegato tu, però il processo che fa lei, risalire proprio all'origine anche della struttura culturale e sociale, per poi scardinarla attraverso questa azione. Quindi conoscere bene ciò che ti circonda per creare. Mi viene da pensare, anche non una di meno, allora ha fatto un'azione porno terrorista qualche tempo fa, quando in piazza hanno alzato. Ah, ecco, vedi. La partita della Nasuro, ma è stato appunto l'8 marzo del 2017, le Ambrosie. Fantastiche. Ricordo quel giorno, sì. Ricordo molto molto bene quel giorno, quel corteo, è stato bellissimo. Sì, quella è un'azione di porno terrorismo, perché effettivamente la Nasuro mai è una pratica che cerca di terrorizzare il sistema. È stato fatto infatti contro tutti i palazzi di forma fallica. Mm-hmm. Che nel caso erano i palazzi del potere di Milano, era la regione, era il Duomo, cioè, insomma, non proprio corbezzolerie. Vedi, già parlarne, già ricordare, già immaginarsi in voglia, dai, ok, quale facciamo, cosa facciamo? No, però prima bisogna studiare, credo che leggerò. Ma invece su, appunto, hai detto che lei scrive di se stessa da alcune definizioni. Lei dove sta? In Inghilterra, in America? Un po'... Lei è in Spagna, a Barcellona. Ah, in Spagna, ok. Quindi è in Spagna, a Barcellona, e a quanto ho capito, comunque, perché questo è un testo anche autobiografico. Ah, okay. Lei mette molto della propria vita e lei appunto parla di come nella realtà, cioè lei sia stata cresciuta da una coppia di attivisti militanti che quindi l'hanno cresciuta effettivamente dandole una certa educazione per cui tu non devi temere l'altro, tu l'altro dell'altro ti ci devi fidare. E però poi ovviamente lei si è trovata a un certo punto crescendo, essendo sessualizzata a 10 anni per la prima volta dalla società che la circondava, ha creato questa controrabbia, ha detto non è vero che io mi posso fidare dell'altro perché il mondo fa schifo, cioè il mondo come lo vedono i miei genitori e come noi lo vogliamo costruire è un mondo bellissimo, ma di per sé bisogna attaccarlo questo mondo, bisogna terrorizzarlo in qualche modo. E come lo fai? Con il porno terrorismo, appunto. È bellissimo come si è appropriata anche di una magari un'emozione, un'azione che appunto in teoria magari di solito si vuole combattere, però trasformarla in un'azione politica positiva. Non so se mi sono spiegata. Sì, assolutamente, sì. Sì, come noi in pace, nel senso, il porno terrorismo penso sia l'unica, una delle poche tipologie di terrorismo che si possa rivendicare a spada tratta a 360 senza pensarci più di tanto, troppo. È molto molto interessante, sì. E guardo se sono arrivate domande, però non mi risulta, quindi niente, facciamo un piccolo break per poi magari introdurre... No, volevi leggere ancora qualcosina di Diana J. Torres? No? Questa è pura improvvisazione, gente, yeah! E per poi introdurre la nostra ospite. Ok, mando un po' di musica. Per me va benissimo. Allora, il prossimo pezzo è... Aspetta, vedi che mi... Perché mi confondo sempre? Perché mi confondo? A me è Survivor. Cosa? Può essere Survivor? No, il numero 3 è... Heartbeats. Heartbeats. No vabbè, dai, si può sbagliare. E non, poi sono anche mezza ciecata io ormai. E gli artisti, l'artista è The Knife. A voi. me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Just touch me, till I can get my satisfaction. Rieccoci, bentornate, bentornati, bentornato. Bentornato a tutti. Abbiamo l'ospite, vero Maya? Certo che abbiamo l'ospite, abbiamo una delle ospiti più figa, più fig che potevamo trovare per questa puntata, attivista e buffoni queer, di nome Nit Kit. Ciao Nit. Ciao a tutti. Allora, io appunto faccio prima una tua piccola presentazione, appunto vedendo sulla base di quello che hai scritto anche tu sul tuo blog, sulla tua pagina nitkit.it, appunto dici di come hai iniziato a conoscere il queer attraverso il femminismo e come ti abbia folgorato nelle dirompenze performative e nell'esplorazione delle appunto pratiche corporee. Quindi la tua formazione è stata attraverso centri sociali, nei teatri nascosti, appunto dentro gli angoli in cui non te l'aspetti e nei comuni metropolitani. Ma quotidiana nell'esperienza di vita, qua, al post-porno, alla tua vita, alla tua vita da appunto buffon, attivista buffon queer. Allora, i miei primi contatti con il post-porno sono stati grazie a un primo collettivo femminista e queer che avevo creato insieme ad altre compagne dell'Horus Occupato, che si chiamava Infinite Voglie, e abbiamo iniziato una ricerca che era subito sulla sessualità. Abbiamo ospitato una rassegna di cinema porno, poi diciamo il grande evento, il grande gruppo con cui l'ho esplorato di più è stata l'esperienza della Lady Fest Roma, che è stato un festival, una rete che ha una rete di donne, lady ci piaceva chiamarci, perché appunto donne era riduttivo, quindi già cominciavamo un percorso sul queer, e attraverso una rete appunto con cui abbiamo realizzato due festival in 4 anni, ma veramente tantissime iniziative, è stato una palude in cui ho preso contatti, in cui ho fatto esperienze, in cui ho tessuto reti. Appunto anche Diana è stata una persona che io amo sempre citare e ringraziare, perché l'incontro con lei è stato uno di quegli incontri che mi ha cambiato la vita, semplicemente. E il suo approccio alla sessualità, che già chiaramente si inseriva in una mia disponibilità, in alcune ricerche che avevo già fatto, mi ha travolto. Poi l'ho rielaborato in modo diverso da come lo esprime lei, con quella forza che descrivevi. Però appunto Diana e tanti altri contatti sono state il veicolo di esperienze pratiche, perché queste sono cose che vanno provate. Adesso abbiamo la possibilità di parlarne, di ragionare, è un momento in cui c'è più questa dimensione, però io spero che sia il trampolino per tante persone poi per provare. Quindi una frase che dice sempre Diana e che io ho preso è: non sono niente senza le mie amiche. Perché questo è un lavoro difficile, è una lotta dura ma anche estremamente divertente, che si può fare in un solo modo, insieme ad altre. Beh sì, assolutamente d'accordo. Poi ti credo che dopo aver conosciuto Diana, cioè, già solo leggendo le sue parole si apre un mondo, e io non vedo l'ora che tutto questo finisca, ma anche di inventarci nuovi modi per poter fare virtuale, cyber o più corporeo, ma contenuto nei corsi di sicurezza con il metro in mezzo. Secondo me si può inventare 1200 cose di pratiche nuove, però immagino che anche conoscerla sarà stato 15 volte più interessante, più rompente, e soprattutto appunto più che ti ha portato alla creazione di workshop, di performance show, di progetti. Io vedo che hai appunto creato un sacco di diversi workshop, dal appunto sadomaso per dilettanti, all'abbandono della rabbia, il sex party. Cioè, a me fanno impazzire anche solo a leggerle. Mi sto mangiando le mani per appunto aver scoperto e aver approcciato a questo mondo durante una pandemia globale. Però sì, la cosa divertente, la cosa non divertente, la cosa veramente interessante che hai detto anche tu è che appunto nasce prima di tutto dal contatto, cioè è qualcosa di molto politico, ma che nasce dal personale. Cioè, prima di essere una compagna lady accanto al post-porno, attivismo con me, sei una mia amica, sei una mia compagna, di essere qualcuno con cui devo poter fare delle cose. Ecco, questo è una cosa che secondo me fa pensare, perché poi appunto il tutto si sviluppa attraverso performance workshop, tu devi essere con tante altre persone. Per esempio tu. Sì, diciamo, performance e workshop sono quello che ho realizzato io. Prima di condurre dei workshop ho partecipato a tantissimi workshop sulla sessualità, sul contatto, alcuni fantastici, totalmente in linea anche con il mio modo di pensare e di vivere, come potrebbe essere quello uno tenuto da Diana, ma anche altri workshop che magari non avevano per forza la componente femminista o transfemminista, da cui io però ho appreso pratiche che poi ce l'ho messo io, diciamo, il femminismo. Ma non per forza workshop, perché quello che ripeto sempre è che, cioè, tutto sta nell'auto-organizzazione. Prima di creare il workshop, un gruppetto della Lady Fest, come amiche, come dicevi proprio tu, abbiamo iniziato a sperimentare tra di noi, senza nessun obiettivo se non quello di riconoscere che le relazioni, anche quelle amicali, sono sessuate, che la sessualità è dappertutto, come dicevi, ce l'hanno i bambini, e non sempre si esprime poi con forma di coito, cioè la sessualità può essere anche fascino, può essere anche un'intimità profonda su altre cose, ma riconoscere che che le relazioni tra noi, in un momento in cui condividere quel progetto meraviglioso ci faceva essere un po' tutte innamorate l'una dell'altra, e quindi con un piccolo gruppo dire queste relazioni sono sessuate, avere il coraggio di dargli una forma erotica solo tra di noi. Quindi in realtà è vero, i workshop io adesso non li sto facendo, non è il momento, ma l'idea che hai avuto tu mi piace molto, perché al centro del post-porno e delle pratiche prese dal queer c'è la fantasia, quindi adesso abbiamo dei limiti, usare la fantasia per superare un pochino questi limiti è una pratica assolutamente post-porno. Però certo, io sono una persona molto carnale, quindi aspetto il momento in cui ci rincontreremo e potremo toccarci di nuovo, però appunto se ci sono dei gruppi di affinità, dei gruppi, non devono aspettare un workshop, possono mettersi lì. Noi proprio avevamo fatto un gioco, certo c'era una persona un po' più esperta tra noi che ci guidava, ma le altre eravamo tutte veramente alla prima esperienza. Facevamo col cappello le coppie, estraevamo chi delle pratiche da fare e le facevamo, cioè così come si può sperimentare con la pornografia, non è che bisogna per forza partecipare e vincere il Berlin Porn Film Festival, si può anche provare a usare la telecamera in un gioco intimo che poi magari rimane lì. Certo. Oppure magari diventa anche un corto, perché poi molte volte le cose fatte così solo per il desiderio di farle hanno tanta bellezza, no? Comunicano tanto. A voglia, ma poi soprattutto le esperienze di vita quotidiana per esplorare te stessa e anche esplorare gli altri, fare esplorare gli altri attraverso te stessa, un qualcosa di così naturale e politico e biopolitico che ecco la forza, io penso che proprio la forza di queste pratiche, di questo movimento transfemminista, post-porno e porno terrorista, sia proprio questo di capovolgere la struttura militante a cui siamo sempre stati abituati, no? Cioè la pratica, la piazza e poi il rapporto personale. E invece no, cioè nel senso, io ho sentito negli ambienti militanti, io e te siamo prima compagni, non dobbiamo essere per forza amici. Invece no, è tutto il contrario, questo ti scardina. Il fatto io e te siamo due persone che si devono conoscere, si devono poter fidare, ci deve essere una cosa di complicità, e quando c'è la complicità si riescono appunto a sovvertire dei pilastri e dei dogmi politici enormi, molto più grandi di quelli di classe, cioè nel senso, senza voler fare una scala di priorità nelle lotte politiche, però quelli più corti sulla sessualità, su come noi concepiamo la vita che viviamo, sono anche dogmi più instaurati da quelli. Certo, ma addirittura alcune pratiche che tutti abbiamo praticato, quando critico qualcosa mi autocritico, perché appunto faccio parte da tanti anni dei movimenti e mi sento responsabile di tanto, ma allontanano, perché allontanano dal cuore. Confrontarsi sempre su una dinamica razionale, su una dinamica dialogica, su una dinamica dove lo strumento è la parola, amplificata dall'uso dei mezzi di comunicazione, dove non c'è più neanche il corpo del punto del tuo compagno che lo vedi, che quell'affermazione lo può aver ferito, e quindi quindi abbinare a una pratica anche assembleare di questo tipo delle pratiche invece dove ci si mette in contatto non nella mente, non nella forza, ma invece nella vulnerabilità, nel cuore e nella sessualità, aiutano anche ad avere un processo politico, diciamo, tradizionale più forte, no? Perché comunque non si punta ad avere il consenso, ma si punta a leggere il consenso, a leggere quella che è la volontà dell'assemblea, non a far sì che l'assemblea risponda a quello che voglio io, perché lo si è imparato magari nella sessualità, no? Dove l'obiettivo è fare, a un certo punto è evidente come diventa fare il piacere altrui, il piacere più grande quando si esplora la dimensione della sessualità con cuore aperto. Quindi a quel punto è chiaro che tu non vuoi fare ciò che vuoi fare tu, ma tu vuoi capire cosa vuole l'altra persona e vedere dove il tuo desiderio incontra quest'altro desiderio, no? Sì, sì, la voglia. L'educazione alla sessualità è educazione alla gentilezza e all'empatia. All'ascolto del corpo e quindi dell'altro, per forza, sì, assolutamente d'accordo. È come se proprio avessi messo per iscritto una cosa che è sempre ronzata, però sì, cacchio, è vero, c'è l'educazione al corpo dell'altro ti porta inevitabilmente anche a non porti in una situazione di sovradeterminazione in contesti politici, umani, quotidiani, altri, vero. Ma mi viene da fare una domanda, se posso, Nit. Ma hai fatto per caso dei workshop proprio su questa tematica del consenso attraverso anche il corpo all'interno di collettivi politici che magari non sono sempre così abituati a fare questo tipo di pratiche? L'hai portata? Guarda, ci sono dei collettivi politici che mi chiamano sempre, ce ne sono alcuni che io adoro, dove trovo persone con cui crescere insieme, proprio perché per esempio a Pisa ci sono vari collettivi e mi invitano spesso e facciamo delle giornate, dei festival, e lì per me, soprattutto dove magari ci sono altre cose oltre me, dove io posso partecipare con loro, provo proprio gioia, perché sento un movimento transfemminista che ha costruito anche in luoghi magari lontani da quelli che io frequento sempre, anche a Genova, anche a Bologna, no? Ci sono tanti posti dove vado e molta parte del gruppo è composta da magari uno o più collettivi che si conoscono, e devo dire che è molto bello il fatto che poi ci siano loro e anche altre persone esterne che quindi si avvicinano, ed è molto bello per me perché laddove c'è un lavoro politico forte precedente cresco tanto anche io nella gioia, non magari nella difficoltà che ho quando ho dei gruppi dove ci sono tante persone lontane da ambienti che sento per me vicini e accoglienti. Quindi sì, ci sono città che con cui sto facendo un percorso da anni. Beh, bellissima questa cosa, perché cioè, io faccio politica da un tot di anni, però questo tipo di approccio, per esempio, non mi ci sono, almeno nel mio collettivo, che è un collettivo misto, non mi ci sono mai ritrovata e non ci avrei neanche pensato probabilmente, e credo che invece abbia una potenza di scoperta e di messa in discussione e cambiare il punto di vista che è veramente appunto potente, non lo so, ed è stata un po' un'illuminazione, perché figurati, per quanto certe pratiche posso averle anche sentite, provate con gruppi però magari di sole donne, pensarla anche su collettivi misti potrebbe essere veramente una... una bella destabilizzazione. Una bella scossa. Sì, sì, sì, sì. Sì, anche al Lago di Garda ho fatto un'esperienza molto bella, laddove c'era una rete di non una di meno, quindi chiaramente io cerco accoglienza, cioè io anche voglio tutelare me, certo. Quindi e poi a Roma principalmente mi piace fare cose al Forte Prenestino, quindi anche lì c'è un percorso di anni. Poi appunto ognuno quella cosa che tu porti, che è molto dirompente, l'accoglie come può e come vuole, nel senso che poi ci sarà magari la persona che rimarrà sempre solo interessata e butterà l'occhio, ci sarà quella che ci si metterà più a fondo, non è che poi deve diventare il diktat di fare queste pratiche, sicuramente alcune persone, ma quelle persone poi avranno un'energia che trasformerà l'ambiente, no? Il collettivo. A voglia. Non con la teoria. Infatti è bellissimo, cioè, certo ci deve essere già un percorso immagino di base e anche il consenso, tutto quanto, però pensarla così. E io ti volevo chiedere anche un'altra cosa, ma perché ti definisci attivista buffon queer? Se posso. Attivista perché è una delle mie anime più importanti, buffon perché è un po' il mio approccio alla performatività. Il buffone è qualcosa di molto leggero, anche molto punk, che però ha in realtà simbolica anche importante e che mi piace, quindi per questo motivo mi definisco così e uso il neutro, perché neutro di genere, perché è quello che in questo momento mi sento più mio. Bello, mi è piaciuto molto, già fin dall'inizio due o tre frasi che hai detto, tre parole che hai usato sono state veramente belle, mi sono anche molto sentita a mio agio e ti ringrazio anche per questo, perché è tutta una bella scoperta, devo dire, oggi. Grazie a voi dell'invito, mi fa molto piacere parlare con voi in questo modo così tranquillo e rilassato. Se per voi va bene, mandiamo una canzone o due, poi riprendiamo, ok? Allora, adesso sempre questo problema mio tecnico, del riconoscere e ricordarsi. Aspetta, questo sta qua, dov'è? Qui? Il titolo della canzone è Survivor, quella che aspettavi tu, Maya, giusto? Sì. Non riesco a leggere, faccio un po' la gioia della situazione, non riesco a leggere l'artista. Ecco voi. I'm a survivor. eccoci, siamo tornate. Era bella danzereccia questa canzone, vero? Sì, sì, sì. Un po' così a scaldare, a saltellare. O muovere sulla sedia nel mio caso con le rotelle. Bene, siamo tornate con Nit a parlare un po' di post-porno, pratiche queer. Maya, come volevi... Avevi altre domande tu da... Sì, certo. Volevo chiederti che definizione, proprio quella schematica ma anche di getto, daresti al post-porno, cioè al tuo approccio al post-porno? Allora, secondo me il post-porno è un utilizzo dello strumento della pornografia con fini transfemministi, trasformativi, antisessisti, antirazzisti, antispecisti ed è un'espressione di una volontà di riappropriarsi, di entrare in contatto profondo con la propria sessualità e anche di incidere sulla rappresentazione della sessualità. Bellissima risposta. Bellissima risposta, per fortuna avremo il podcast e potremo sbobinarla. Bisognerebbe scriversela e poi e quindi riuscire anche a... Bellissima infografica per il prossimo post delle ribelli. Definizione sì. Di post-porno made by Nate Kit. ok. Dopo avermi dato questa bella definizione, mi ha scattato in realtà. Vuoi che dica come le persone possono trovare delle cose da vedere? Sì. Assolutamente sì. Bravissimo. Farei così. Per iniziare questa ricerca, io andrei a vedere i programmi dei festival che ci sono in giro per l'Europa e il mondo. Per il mondo io non li so tanto, quindi diciamo per l'Europa. Il più importante è il Berlin Porn Film Festival. In Italia abbiamo il Hacker Porn Film Festival di Roma. Già partendo da questi due festival, uno può vedere i vecchi programmi, no? Dai vecchi programmi del festival trovare i film, seguire le tracce dei film, seguire le tracce di registi e di artisti e quindi iniziare una ricerca sul web e magari c'è qualcosa che si può acquistare, qualcosa che si può vedere online, così proprio perché noi stiamo parlando di una cosa che invece va principalmente vista. Quindi per iniziare una ricerca così già ci si rende conto delle atmosfere. Poi certamente leggere i libri che abbiamo detto, appunto questo di Valentine, di cui leggerete dopo, e questo di Diana e tanti altri di Golena Malatempora. Così si può iniziare in questo periodo in cui è un po' tutto fermo una ricerca. Ok, quindi lo studio, adesso che siamo fermi, che deve essere anche gioioso, perché nel senso, questi sono bei film, immagino. La visione dei film è molto divertente, questo è il bello delle pratiche porno terroriste, perché ci si diverte anche tanto a farle. La lettura del libro non era per niente noiosa, la consiglio a tutti e tutti e tutto e tutte, cioè assolutamente. E poi, bellissimo, quindi per la scena post-porno o porno terrorista italiana, più o meno, quando nasce? Cioè, è inizio 2000? Allora, proprio una scena porno terrorista, diciamo che porno terrorista è un termine che ha creato Diana e che è molto legata anche a lei e ad altre figure. Mi viene in mente Maria Basura, per esempio, è una persona che lo sta portando avanti, un po' come l'ecosex portato avanti da Annie Sprinkle. Sono percorsi sì che magari tanti praticano, poi dire che c'è proprio una scena mi sembra un po' eccessivo. Sicuramente c'è una scena di attivismo che è post-porno, porno transfemminista, sadomaso, che c'è in Italia, che appunto in queste città che ho detto, Roma, anche Bologna, Genova, ci sono tanti collettivi che lavorano ancora sulla sessualità, magari non a livello sempre continuo, perché poi c'è un problema un po' che le feste che ci sono commerciali sono molto distanti dai valori e dalle pulsioni che muovono un attivista. Quindi, per esempio, per me è molto difficile frequentare gli ambienti un po' generici, un po' commerciali, che si occupano di questo. Però, appunto, quello che posso dire è che attorno ai festival, attorno alle iniziative, si stanno creando dei giri. Cioè, l'Hacker Porn Film Festival ha contribuito tanto anche ad alimentare la creazione di gruppi che lavoravano con la pornografia, con la sessualità, quindi ci sono tante persone che fanno laboratori, appunto Valentine, ci sono io, ci sono altre che fanno in base a quello che interessa un collettivo, con una ricerca un po' in rete, anche partendo da questi festival, da Lady Fest Roma, che vi ho detto che è un po' vecchio, c'è stata anche la Lady Fest a Milano, potete pure rispolverare quei contatti, e ci sono appunto persone nuove che trovate attraverso i festival, e creare esperienze, cioè anche solo fare un laboratorio nella propria città, creare un piccolo iniziativa di visioni, partendo anche a piccoli passi, no? Non è che subito bisogna fare un festival perché è complicato, no? Ci vuole tanto lavoro e tanta cosa, si può iniziare a fare un lavoro che poi è lento, è una trasformazione profonda che io, come insomma, non mi fiderei di un percorso senza giudicarlo, che ne so, da domani inizio a prendermi l'ayahuasca e faccio 10 sedute una volta al mese. No, io penso che la stessa cosa è una cosa potente come il post porno, cioè sono trasformazioni profonde che richiedono anche tempi di elaborazioni, tempi di, cioè, che richiedono piccoli, io credo molto nel piccolo passo, nella nuance, nell'arrivarci per gradi, nel sentire anche fortemente i propri limiti ogni volta e sentire se di rispettarli, non rispettarli, nel misurarsi piano piano col consenso, no? Quindi partire piano può portare lontano anche. Assolutamente, certo, anche perché appunto, come dicevamo prima, sono passi che sovvertono i dogmi più importanti e più sedimentati nella nostra quotidianità, nel nostro vivere di noi e dei rapporti. Quindi sì, piccole dosi, ma importanti. In questo momento appunto di fermo, dove non ci si può incontrare, non ci si può, cioè, riesci lo stesso a portare avanti un pochettino questi laboratori in una maniera, immagino, per forza differente, però appunto sulla base di quello che hai appena detto, dei piccoli passi, cioè se riesci, no, comunque, o è infattibile per te? No, quando è iniziata questa storia della pandemia ho capito in un secondo che era anche dolorosamente, ma insomma, no, il lavoro del Buffon ti aiuta tanto a lavorare sull'accettazione, che era una cosa da mettere temporaneamente nel cassetto, la dimensione corporea così centrale in tutto quello che propongo oggi è interdetta da tanti fattori, e io tutto quello che propongo sono cose che io ho già provato, cose su cui io mi sento di avere una sicurezza, di poter essere una rete per le persone. In questo momento no, perché non ci capisco niente neanche io, perché ho paure, perché ho rabbie anche io come tutte, e non mi sento di essere la rete di protezione su delle esperienze che appunto adesso sarebbero talmente modificate nella loro essenza da quindi sto facendo una ricerca spirituale mia, sto leggendo tanti libri transfemministi, sto cercando di arricchire il mio percorso, ma in modo individuale principalmente. Beh, no, immagino che questo periodo sia abbastanza di ostacolo un po' per tutti quanti e tutte quante, a maggior ragione chi magari lavora proprio anche poi principalmente con il corpo. Canzone. Canzone? Oppure no, io ultimissima domanda, ultimissima, che sia personale, in curiosità, ma per tutti. Cosa stai leggendo in questo momento? Cioè, oltre a Diana Torres, Valentina Cafluida, qual è il 2020 e 21 post-porno? Post-porno, adesso dimmi, quello che sto leggendo, la vita segreta degli alberi, se devo dire la verità, in questo momento, che non c'entra molto, ma c'entra profondamente, perché è sulla connessione, sulla cura e sulla comunità, su tutto. Quindi sto leggendo questo, sto leggendo i testi di sciamanesimo, perché sto facendo un percorso su questo, penso che appunto lavorerò molto molto sull'idea anche di anarchia e spiritualità in futuro, questa è una cosa che dichiaro. Quello che consiglierei di leggere in questo momento sono L'aurora delle transcattive di Popolo Marchesciano, di Edizioni Allegre, e consiglierei anche Taoismo e anarchia di Giuseppe Aiello. Mi sembrano due testi assolutamente adatti al momento storico, che io la sessualità la prendo alla larga, quindi comunque sentirei di consigliare in questo momento. Beh, grazie. Adesso Maya, tu, non so se tu hai scritto, magari anche noi manderemo nella chat Telegram della radio consigli di letture, tac, così almeno diamo degli stimoli. E quindi, una cosa volevo chiederti, ma volendo, no, beh, adesso tu hai detto che appunto sei in un momento quindi di anche ricerca tua personale, quindi quando si riaprirà, io ti dico già che appena sarai disponibile sarebbe bellissimo averti qua a Zamma e fare un laboratorio insieme a te, quindi aspettiamo la riapertura. Vorrei tantissimo tornare a Milano perché è una città che amo. Adesso stiamo nell'attesa, stiamo nella pazienza, ma sicuramente ci riabbracceremo presto. Sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora, ti accoglieremo guarda a braccia aperte proprio. E grazie. Quanto sì, bisogna tornare a Milano, tutti insieme. Anche Maya. Sì, ti rivogliamo qua anche a te, Maya, assolutamente. E vi mando un bacio. Grazie mille. Grazie mille. Un bacio anche a te e grazie mille per la tua partecipazione qua in radio. Con le grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Io ho voglia di fare proprio, non lo so, dai, è uno di quei momenti in cui ho voglia di buttarmi fuori e fare casino in senso buono. È giusto, sono le 18, pompiamo. Ok, allora mando questa canzone, lascio a voi capire che canzone è, chi ascolta. Basta, continuo a fare errori, quindi non dico più niente. Via, questa... Preparate Shazam, ragazzi. Preparate? Shazam, ragazzi. Shazam è o la vostra cultura musicale, chissà mai che qualcuno... Come sempre nel mio modo di dirlo storpiato, ecco la nuova Chun. Thank you. Caspita, le DJ, che pezzoni! Aveva ragione a dire, sembra di stare in festa locca proprio. Totale, totale. Lunghissimi. Ci siamo ancora, gente. Yay. Sì, sono 2:30 di notte di venerdì. Siamo locca di e stiamo parlando di post-porno. E se parliamo di post-porno, non possiamo che citare Valentine. H. Fluida Wolf è il suo libro, un libro che esce l'anno scorso, esattamente in questo periodo, a ridosso del lockdown, e quindi non vede tutte le presentazioni in giro per l'Italia che avrebbe dovuto, e che un po' ci dà la panoramica, prova a darci la panoramica di quella che è la cultura post-porno, la figura, la scena post-porno per Valentine. Ci tengo, questo libro ha suscitato proprio un sacco di flame e scalpore per l'utilizzo di un linguaggio inclusivo, e noi abbiamo deciso di presentare questo libro leggendo esattamente la nota che è riuscita a scomodare l'Accademia della Crusca. Niente poco di meno della crusta, perché nota, in questo libro si è scelto di non utilizzare il maschile generalizzato prevista dalla norma grammaticale italiana in quanto espressione di un uso sessista della lingua. L'uso dell'asterisco al posto del suffisso finale di parola permette di superare la dicotomia di genere femminile e maschile e usare una forma neutra in un'ottica di inclusività. In un caso si troverà anche l'uso del suffisso nominario U. Questo ci ha fatto incazzare un sacco di persone, e invece noi useremo U e tut per tutta la puntata. Fa così incazzare l'Accademia della Crusca. Dici che arriveranno ad arrabbiarsi anche con le ribelli, ma sarebbe bello. L'importante è che se ne parli, no? Giusto. Diceva. Giustissimo. E... Allora. Vai, scusami, Maya. Vorrei iniziare questa appunto lettura di post-porno, ricordando che il libro fa parte della collana Book Block di Taderis Edizioni ed è in seconda ristampa, quindi affrettatevi nei vostri librai indipendenti preferiti, perché è un must have, veramente, veramente bellissimo. Inizia così: il principio era il porno. Pornografia, dal greco antico, o porne, prostituta, più grafè, disegno, scritto, documento. Pertanto, pornografia significa, letteralmente, scrivere riguardo a prostitute o rappresentare prostitute. Le definiamo mainstream o convenzionale. Mostra essa stessa quali sessualità vengono al suo interno socialmente legittimate o scoraggiate, quali siano le pratiche accettabili e i soggetti rappresentabili e degni di essere sessualmente desiderabili. Nelle parole di Paul Di Preciado, filosofo e attivista queer, considerato tra i promotori della nascita di un discorso post-pornografico propriamente detto in Spagna e successivamente in alcuni stati europei e negli USA, la pornografia è la macchina politica con il maggior potere di produzione del piacere. In un'intervista per Parole di Queer afferma: la pornografia è una potente tecnologia di produzione di genere e sessualità. Per dire rapidamente, la pornografia dominante sta all'eterosessualità come la pubblicità sta alla cultura del consumo di massa. Un linguaggio che crea e normalizza modelli di mascolinità e femminilità, generando scenari utopici scritti per soddisfare l'occhio eterosessuale maschile. Questo è sicuramente il compito della pornografia dominante. Sessuali docili, facendoci credere che il piacere sessuale sia quello. Paul Di Preciado osserva come negli anni 50 negli Stati Uniti la pornografia diventi parte della cultura di massa. È proprio in questi anni, infatti, che nasce l'industria pornografica contemporanea, caratterizzata da una distribuzione su larga scala di un prodotto seriale. Nel 1953, in piena guerra fredda, A. Geffner, giovane laureato in psicologia da poco congedato dall'esercito, forda la rivista Playboy, destinata ad un pubblico maschile ed etero. Nel primo numero compare la foto a colori di colei che sarà destinata a diventare una delle più importanti dive erotiche del XX secolo, la loro sconosciuta Marilyn Monroe. Definita come playboy, oggi potrebbe far sorridere, soprattutto se ne paragoniamo i contenuti a quelli proposti da canali quali YouPorn e Pornhub. Ma non va dimenticato che all'epoca vigevano leggi severe contro la pornografia e la distribuzione, la vendita di testi di immagini e contenuto sessuale era fortemente limitato. Ha fatto di Playboy un importante oggetto di analisi, evidenziando come questa non sia solamente una rivista piena di donne femminili, ma soprattutto un impressionante progetto comunicativo architettonico, il cui principale scopo era quello di offrire una valida alternativa al tradizionale nucleo familiare americano. Non solo una rivista, ma un dispositivo più ampio di produzione del corpo e della sessualità. L'irruzione del post-porno, un altro porno è possibile. Il post-porno si presenta come fenomeno fluido, che sfugge a categorizzazioni e definizioni univoche, e non vuole presentarsi come movimento. Ogni tentativo di dare del post-porno una definizione precisa si rivela fallimentare, e il manifesto post-porno è chiaro in questo senso. Definire il post-porno è un esercizio tanto assurdo come cercare di dare una spiegazione chiara, generale, molto al di sopra della sessualità di ogni persona. Sono gli stessi protagonisti che scelgono di definire il loro attivismo post-porno, partendo da se stessi, narrandosi dall'interno, raccontando il proprio corpo e i propri desideri, sfuggendo qualsiasi etichetta e rivendicando l'essenza anticapitalista della post-pornografia. Il termine fu coniato nel 1990 dall'artista olandese Wink van Kempen per un nuovo show di Annie Annie Sprinkle, post-porn modernist. Il momento ancora oggi ricordato come il culmine dello spettacolo è la celeberrima performance del titolo A Public Cervix Announcement, che consisteva in una pubblica esposizione della cervice di Annie. Sorridente, seduta perfettamente a suo agio su una poltrona, Annie apriva le gambe, inseriva uno speculum nel canale vaginale, spiegava perché stava mostrando la sua cervice e invitava le persone del pubblico a salire sul palco e dare un'occhiata dentro di lei con una torcia. I commenti erano per lo più di stupore, gratitudine, curiosità e molto divertiti, perché era la stessa Annie a incoraggiare questo tipo di attitudine rilassata. L'intento dichiarato della post-pornografia è insomma quello di smascherare i codici della pornografia convenzionale, maschilista, razzista e abilista, che discrimina le persone con disabilità, e sovvertirla, sessualizzando lo spazio pubblico, dando voce e dignità sessuale a tutti quei soggetti esclusi, marginalizzati e umiliati da essa. L'obiettivo esplicito della pornografia convenzionale è d'altronde sempre stato quello di produrre eccitazione nello spettatore, il maschile singolare e voluto, fornendo una rappresentazione di corpi, possibilità e pratiche limitate, ma continuamente reiterate, una codificazione della sessualità. Lo stabilirsi di una norma, e quindi di cosa sia lecito e cosa non lo sia, cosa sia normale e quali debbano essere i nostri desideri, affermandosi di fondo come ideologia. Naturalizzazione, omologazione, normativizzazione, niente a che vedere con un discorso di liberazione. Per anni ci è stato fornito un unico immaginario sessuale che ha avuto un imponente e drammatico effetto culturale, stabilendo il limite delle nostre possibilità, ingaggiando corpi e portando a desideri indotti. La pornografia mainstream è un dispositivo di potere culturale, sociale e politico facile da smascherare, ma difficilissimo da smantellare, per la sua capacità di radicarsi e sedimentarsi. Eccoci, vi abbiamo dato qualche spunto di lettura, di pensiero dal libro di Valentine H. Fluida Wolf, Postporno. Speriamo di avervi stuzzicati e stuzzicate, stuzzicato un pochettino, così da andare a comprarvelo. Io mi ricordo, per esempio, adesso aneddoto assolutamente magari inutile, l'ho comprato proprio durante la pandemia, dalla mia libreria indipendente di fiducia. Che me l'ha... E anche la mia. Ok. E che me l'ha proprio portato a casa. Carino. Libreria Antigone, questa è pubblicità, però si può fare in questo caso. Libreria Antigone arriva anche allo Santos, sappiate, lo Santesi. Grande, grande la Libreria Antigone. E l'ho letto proprio durante il primo periodo del lockdown, quindi anche lì. Aprire le menti, anche se il corpo non può viaggiare, è sempre un bello stimolo. Sì, a voglia. Poi il corpo può viaggiare. Va bene, carissim. Carissim. Carissim. La puntata di oggi delle ribelle... Mazza, 18:30, non potevamo essere più precise di così. Oggi, perfezione. 10. Allora, voto 10. Voto 10. Voto 10. Direi che questa accoppiata, anche se da lontananza, funziona. A proposito di voto 10, Alessandro Borghese è venuto allo Santos, ragazzi. In questi giorni? Sì, ha fatto una puntata, hanno fatto la puntata l'altra volta. Ma dai. A Santo Spirito, te lo giuro. Te lo giuro. Che uomo. Quindi, io, 10 anche per questa puntata. Sì. E per aver partecipato, ringraziamo ancora Nikit. Sì, tantissimo, davvero. È stato veramente una bella scossa piacevole oggi. E vi ricordiamo tutti i nostri canali, spero di non doverli ripetere perché ormai li sapete a memoria. Instagram, Le Ribelli, Tati non basso, vabbè. Va bene così? Seguiteci soprattutto su Radio ZM su Facebook e su Telegram, dove vedete tutti i programmi, tutte, e soprattutto girano anche i podcast. Arriverà nel giro di qualche giorno, si spera, il podcast anche di questa bellissima puntata. E... ovviamente anche su Instagram, Le Ribelli ZAM. Sì, le trattino basso, ribelli, trattino basso, ZAM. Mica è facile, è sempre complicarci la vita. E ci vediamo? No, non ci vediamo. Ci sentiamo. Sentiamo, ma ci vediamo col cuore. Ci vediamo col cuore. E settimana prossima, domenica, la do l'anticipazione o non la do? No, mai. No, ma questa no, cioè, no, va bene. Vabbè, sarà un'intera puntata con un ospite, una sorta di intervista, ma potrete, avrete tutta la settimana per scriverci le domande, per interagire e poi ovviamente anche durante la diretta. Però io sono molto emozionata per domenica prossima, ore 17, Radio ZM. Mando l'ultima traccia lunghissima che oggi le DJ ha deciso di fare canzoni, mettere giù canzoni veramente lunghe e a risentirci. A risentirci. Bonsoiré. Ciao. Buonanotte. Not to waste it. The greatest talent is how to keep it.